il sabato del villaggio. Allora, fatemi fare dei ringraziamenti in chiusura del sabato del villaggio, ma in apertura di RadioTube, perché noi ci stiamo ancora da Piazza Pasi a Trento per il Festival dell'Economia, ancora per un'altra ora nella quale, vi anticipo, parleremo molto anche di sport, ve lo dico. Allora, grazie a Marco Lombardo in assistenza a Trento, Cristian Goldoni in assistenza a Milano, anche psicologica, Andrea Roccabella in regia a Trento, Gianmarco Ferronato in regia a Milano, qui a Trento a far funzionare tutto Elena Ligios e Davide Ciocia. Allora, siamo pronti per dare la linea a RadioTube? Beh, Daniele Bellasio ha avuto il suo esordio al sabato del villaggio. Adesso mi riprendo, esatto, cambiamo la maglietta. Dopo l'emozione di Francesco Moser, ma guarda, vedrai altre emozioni in questo sabato, in questo ci RadioTube. Dai, sigla. Vai. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Ultima cosa, tu ne hai vinte tante, cosa serve soprattutto in partite come questa? Cosa serve da mettere in campo? La testa, le gambe, il cuore? Penso che non serve un cazzo, non serve un cazzo perché deve fare sempre quello di io. No, è il passato, sono per la storia, non serve niente. Vabbè, è fantastico. Ma sai chi era? Questo è Dani Alves. Ma sai che Dani Alves? Io lo voglio tagliare e usare come file audio. Sembrava un po' brillo. Comunque è molto simpatico. Ma sai chi è il giocatore della Serie A più seguito sui social? Che ma è dai, strano, perché non è così, non è Higuaín, eppure è evidentemente. Io pensavo che fosse Vandanara il giocatore più. No, Vandanara adesso perché devi. Già mi hai fatto sentire la musica della Champions, che allora, è una roba che. Allora, dai, mi prendo il cuore e me lo strappo. Daniele, sì. Andiamo. Dove andiamo? Andiamo a Cardiff. Però fammi essere serio, okay, perché non voglio più fare questa roba che devo soffrire. No, siamo la fredda cronaca. Sì, come la foto che ho appena messo su Instagram, sì, della tua espressione davanti a Francesco Moser. Brava, quello è il mito. Adesso io torno serio, freddo, un giornalista che affronta un evento che sta per accadere questa sera. C'è la finale di Champions, sì. Real Madrid Juve o Juventus Real Madrid, non so come si dica quando si gioca a Cardiff. Noi abbiamo un inviato molto speciale. Abbiamo a Cardiff il direttore di Il, Cristian Rocca. Cristian, ci senti? Ciao, vi sento, sì. Ciao, dove sei? A bordo campo? Sono a Cardiff e intanto volevo dire subito una cosa su Dani Alves. Secondo me è uno dei più grandi pensatori del XXI secolo, per cui. Ma sono d'accordo con te, ma mi ha conquistato. È così, ha ragione. Ma fantastico, succede di tutto a Cardiff. Senti, come stai, Cristian, visto che tu sei poco tifoso? Benissimo, sto bene, sono in grande tensione per la finale del 2018 a Kiev. Perché questa qui ormai è andata e mi sono concentrato su questo, quindi, capito? Però, a parte gli scherzi, l'atmosfera è fantastica. C'è Cardiff gremita di tifosi di entrambe le squadre, ovviamente. Dove tutti cantano, scherzano, si fanno i selfie, anche i tifosi di squadre avversarie. La cosa più divertente che ho visto fino adesso è un gruppo di tifosi del Barcellona con le maglie del Barcellona e però con le bandiere e le sciarpe della Juventus. Beh, chiaro. Ah, perché c'è una parentela? No, perché il Barcellona è quanto anti-Madrid. Il Real Madrid e quindi diciamo, per la Juventus. Che dire. Senti, Cristian, una domanda seria. Chi sarà decisivo da una parte e dall'altra questa sera? Dai. Beh, ma che ne so, io mica faccio... Ma no, dai, perché poi prima, c'è tutta la scaramanzia, le cose. No, ma non ti ho chiesto come finisce. No, posso dire soltanto questo, che se la Juventus gioca come sa giocare, se la partita se la gioca fino alla fine, cioè non siamo favoriti, neanche favoriti, se giochiamo bene possiamo... Guarda, credo c'è la differenza fra, come sempre, la difesa della Juventus. Se riusciamo a contenere gli avversari, insomma, è possibile che la partita si vinca, però insomma, vediamo. Per te, Marta? Tu la guardi intanto? Io sarò in treno che torno a Milano. No. Vabbè, quello. Ma no, no, in realtà a me piacciono molto. A me piacciono le estati pari, quelle con le nazionali, gli europei, i mondiali. Mi piace perché mi fa molto sera d'estate. Quelle con, invece con le. Quelle dispari in cui non c'è. No, mi piacciono meno. Comunque, Daniele, tu la guardi la partita, ma soprattutto, diciamolo, siccome è lievemente interista, gli ascoltatori sanno che. No, non, guarda, non lo dico. Dai, dillo. Allora, prendi una posizione. Diciamo che io coraggio. Secondo me anche Christian Rock è d'accordo. Io legittimo il gufaggio. Secondo me nel tifo calcistico si può anche, diciamo, tifare. Ora, tifare per il Real Madrid per un interista è dura. Però diciamo anche tifare per la Juve. Diciamo tiferò per il bel calcio. Ah, per il bel giuoco. Con la giuoco. No, però Christian, potrebbe essere la fine sportiva di qualche grande star. Non so, ho sentito la dichiarazione, per esempio, di Buffon, che diceva sarebbe. No, vabbè, dopo no, Totti però, pure Buffon. No, non ce la possiamo fare. Chiedo a Christian, perché sarebbe una storia fantastica. Un mito come Buffon che ovviamente, vince. Buffon, ovviamente, diciamo, ha una certa età e quindi non giocherà a lungo, anche se credo giocherà fino perlomeno ai prossimi mondiali. Però, appunto, è vero che è una delle sue ultime possibilità di vincere la Champions League, però non è neanche l'ultima. Non scherzavo quando dicevo che la prossima finale sarà qui per il prossimo anno e potrebbe anche esserci di nuovo, potrebbe magari vincere due volte di fila, chi lo sa, vedremo. Senti, ma sta storia del triplete che tu dici che non esiste, lo scrivi sui social, però dai, di la verità, che tutto sommato ti farebbe piacere, no? No, ma scusami, il triplete è la tipica post-truth. Il triplete non è un trofeo, non è che vinci una coppa in più perché le vinci tutte e tre nello stesso vabbè, periodo, ma è come il grande slam, anche il grande slam non esiste, però. Ma no, non è così, perché a me interessa vincere la Coppa dei Campioni stasera, dai, mi interessa vincere il triplete. Se io avessi, se la Juventus avesse vinto lo scudetto e la Coppa dei Campioni e avesse perso la finale di Coppa Italia con la Lazio la settimana scorsa, secondo te io stasera sarei: oddio, ho perso il triplete, non no, ho fatto il triplete, no, non mi frega nulla. Lo so, lo ammetto, però secondo me tutto sommato pareggiare una cosa che un'altra squadra italiana ha fatto un 6-7 diciamo anni fa. Diciamo così, se non mi sentirai mai dire evviva, abbiamo vinto il triplete, però voi non avrete, voi dico, voi interisti non avete più nulla da dire. Potremmo dire che siete la seconda squadra italiana ad aver fatto il triplete. E niente, non sì, si dà pace, c'è Christian. È anche la terza squadra italiana che ha un Bellasio come suo. Però voi mettetevi nei miei panni. Tifo Olimpia ed è successo quello che è successo. E ne parleremo. Ed è successo quello che è successo. Tifo Inter, ragazzi, dovete mettermi nei miei panni. Comunque, buona partita. Christian, ma tu la guardi bardato da tifoso, no, con maglia, sciarpa o sì, con un po' di. Col tuo stile un po' più understatement? Certo, ho indosso una maglia e ne ho in mano un'altra. Ne ho due. Ah, sono ok. Con due maglie okay. della Juve, quindi. Due bianco e nero. La cosa bella davvero, a parte gli scherzi, sì, vedere qui in giro per la città sono tutti con le maglie della propria squadra, molto divertente, molto bello. Quando esce il prossimo numero di Il? E chi lo sa, adesso sono qui a Cardiff, fammi tornare in redazione a Milano. Vabbè, ma più o meno su che sarà? Ma povero Christian Rock, ma su che cos'è, te lo ricordi? Sì, certo, allora sarà un numero molto importante, un summer fiction issue con 12 racconti originali scritti per noi da grandi scrittori italiani, premi Strega e non, compreso anche, ne cito soltanto uno, Sandro Veronesi, grande scrittore, che è tra l'altro qui con me a Cardiff. Beh, straordinario, vabbè ragazzi, tu soutiens. Allora, chissà che racconto si scriverà questa sera, caro chissà. Christian. Io parteciperò così emotivamente perché mi piace quando comunque ci sono le squadre italiane. Poi non, io sono proprio, non sono interista come il nostro Daniele. Quindi io sono assolutamente curiosa di sapere come andrà. Grazie a Christian Rocca, goditela comunque vada, goditela. Grazie Christian. Ciao, grazie. Eccoli qua i tifosi. Noi facciamo una brevissima pausa a traffico e poi torniamo a Trento. Penso che non serve un cazzo, non serve un cazzo. Il passato è il passato, sono per la storia. Non serve niente. YouTube. Allora Daniele, abbiamo parlato di calcio, sì. Vabbè dai, era ovvio, poi sì, abbiamo chiamato forse il più juventino dei colleghi del Sole 24 Beh, Ore. Beh ce ne sono, Lonaso, Simone Filippetti, ce ne sono, il direttore, Guido Gentili. Però Cristian Rocca diciamo che non si tiene neanche sui social. Però adesso, perché dici, io ho visto che prima ne hai parlato molto bene di cronaca, dei temi qua di Trento. Sì, abbiamo il nostro Andrea Ferro che sono tre giorni che gira. Specifico poi sul tema del festival, quindi la salute, certo, disuguale, certo. Adesso abbiamo un grandissimo amico per parlare magari più dei macro temi che qui al Festival dell'Economia di Trento circolano nelle strade e nei dibattiti. Io sono contenta perché è venuto in studio, quindi ce l'abbiamo qui grande. In questo studio delizioso. No, sì, ma se non avete chalet visto, di montagna. Sì, sembra uno chalet di montagna. Andate sui nostri account di Twitter, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola. Io ho messo anche tutte le fotine perché è proprio bello. Oltre ad aver fatto tutte le stories di Instagram, anzi, brava, adesso faccio tu un'altra che sei capace. Story di ecco. Instagram. Dai, presenta questo ospite che è stato spesso il nostro ospite. Io sono contenta di averlo qua di persona. Allora, è giovanissimo, è già passato per il Financial Times, per Repubblica, oggi è editorialista e analista di Bloomberg, Ferdinando Giuliano. Ciao Ferdinando. Ciao Ferdinando. Wow, che bello essere finalmente in studio con voi. Chiocciola Ferdi Giuliano. Sì. Chiocciola Ferdi Giuliano con la G. GL, Giuliano, sì, non sbagliate se no non lo trovate. Allora raccontatemi un po', che io sono qua davanti a Bellasio. No, ma Giuliano, dai, aiutaci voglio subito con un audio tuo che hai scelto. Ah, dai, sì, vai, parti con, buttiamo facciamo subito un audio. Non so, l'uomo del momento chi è secondo te, Ferdinando? Macron. Ah, io stavo dicendo Flavio Insina. No, vabbè, allora diciamo sono due, Macron e Trump. Bravo. Allora ragazzi, andiamo a sentire cosa ha detto quel gran bel ragazzo di Macron. Mi somiglia, Tonight I wish to tell the United States, France believes in you. The world believes in you. I know that you are a great nation. I know your history, our common history. To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed by the decision of the President of the United States, I want to say that they will find in France a second homeland. I call on them, come and work here with us, to work together on concrete solutions for our climate, our environment. I can assure you, France will not give up the fight. No ragazzi, io non l'ho interrotto perché è di un sexy, cioè Macron che parla il suo capisco cane la primavera, Marta, però il suo cane morde sembra, no, fantastico. Allora Macron, di fatto, Macron che dice, si è rivolto a imprenditori, ha detto vabbè ragazzi, qua la situazione in America, se non è più conveniente alle vostre necessità, venite, come to France. Ma Ferdinando, tante speranze su Macron, pure troppe forse. Sì, però devo dire la verità, se non altro è molto divertente vederlo in azione in questa prima fase, perché tutti se lo aspettavano un po' il freddo tecnocrate, pronto a negoziare con la Merkel sul futuro dell'Eurozona, e invece sta rivelando abbastanza anche mediaticamente estremamente efficace, ha trovato degli slogan. E questo contrapporsi a Trump è chiaramente studiato, l'abbiamo visto a Taormina, la stretta di mano che ha fatto il giro del mondo e dei social, e ora questa entrata a gamba tesa in America. Ricorda già quello che sta facendo un po' sulla Brexit, perché lui da un po' di tempo comincia a tentare le banche che sono a Londra e dice, beh, se non potete più stare nell'Unione Europea da Londra, lo potete fare da Parigi. Come dice lui, Esatto, e secondo me è molto interessante per due ragioni. Primo perché, diciamo, questa agenda un po' liberale e liberista per i francesi può essere un attimo scomoda, vista la tradizione un po' più statalista, e quindi deve dare dei risultati. Quindi un ottimo risultato è quello di dire, vabbè, con me noi portiamo le imprese, portiamo gli investimenti, portiamo i capitali. Ma in secondo luogo, secondo me, solletica anche un po' quell'anti-americanismo che in Francia è sempre abbastanza diffuso. La grandeur francese è tradita in questi anni. Lui ha trovato un nemico perfetto e non ha paura ad andargli contro anche su temi che poi però sono molto importanti, come appunto quello del... Tra l'altro anche con Putin ha dimostrato di sapersela giocare alla pari e di mettere la Francia in una posizione di coraggio. Dicevamo Trump. Dicevamo Trump che questa settimana ha fatto qualcosa di abbastanza... E questa parola incomprensibile che però ha dato adito, sì, ha dato adito secondo me ai meme e alle cose virali più irresistibili del momento, ma ha preso una decisione piuttosto impopolare e l'ha annunciata così. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord The United States will withdraw, si ritireranno dagli accordi di Parigi. Allora, a onor del vero, niente di totalmente inatteso, perché noi ci lamentiamo sempre dei politici che non rispettano, e lui però... Lui purtroppo le rispetta, esatto. Oh, purtroppo, per fortuna, nel senso che lui, punti di vista, no, però. Da un certo punto di vista però noi ci aspettavamo che alcune sparate in campagna elettorale fossero, forse perché siamo più abituati con gli italiani, fossero sparate da campagna elettorale, invece detto fatto, Ferdinando? Sì, è sicuramente uno di quegli elementi dove appunto ci si chiedeva sempre Trump come sarà una volta eletto, e in effetti su alcune cose si sta dimostrando molto diciamo determinato a portare avanti delle battaglie che sono anche molto di, come si può dire, di bandiera per quella che è il suo quelli che l'hanno eletto. Cioè c'erano molti che appunto erano questa convinzione che l'accordo sul clima sia dannoso per l'economia americana, e quindi lui l'ha portato avanti così. Però io mi fermerei, insomma, tornerei alle frasi che avevi detto, the United States will withdraw, e la fermerei lì. Il tema è anche gli Stati Uniti che si tirano indietro, che non sono più diciamo la potenza mondiale che vuole al centro del, diciamo, del multilateralismo internazionale. Oggi si ritirano, lasciano il campo a chi? Ed è interessante cominciare a vedere la cooperazione, per esempio, fra l'Europa e la Cina, che... Non lo so, è un tema interessante perché non si ferma solo al clima. Pensiamo per esempio al commercio globale. Certo. Trump, bisogna un po' vedere cosa vorrà fare sul tema del protezionismo. Potrebbe anche lì decidere di andare giù duro e di nuovo non tradire le promesse fatte in campagna elettorale. Noi sappiamo che invece in Europa e in Cina si è molto più interessati agli scambi internazionali, al commercio. Ovviamente ci sono, diciamo, dei punti in sospeso, pensiamo per esempio alla questione del dumping cinese sulle aziende europee, però chissà che anche lì non si apra un nuovo asse. Quindi io sono molto curioso. Sì, per di prima vedere... sono stata stupita del fatto che la Cina abbia detto subito no, noi negli accordi rimaniamo. Ma se questa è una straordinaria occasione per il soft power cinese. Certo. Ricordiamoci Xi Jinping che va a Davos e fa l'elogio del libero commercio internazionale, che è completamente ovviamente ipocrita, però dal punto di vista della pubblicità, del soft power, è un momento molto molto interessante per i cinesi, per gli europei, e stanno provando a cogliere. Ferdinando, tu arrivi dall'incontro che ha avuto Padoan qui al Festival dell'Economia. Tra le altre cose, Padoan ha anche risposto all'intervista di Matteo Renzi al Sole 24 Ore di oggi, intervista che a sua volta veniva dopo un editoriale di Guido Gentili che si chiedeva a tutti i partiti, sì, veloci al voto, ma per fare che cosa? Che cosa ti ha colpito di questo incontro di Padoan? Il ministro ha detto non sarà sprecata, ed è qui la risposta a Renzi, la prossima manovra. Che cosa ti ha colpito? A me colpisce l'atteggiamento che sta avendo da qualche giorno il ministro, che è quello quasi di costruzione e difesa del suo operato, parlando quasi da ex ormai. Sì, ha detto dell'università. Ma ancora prima ha detto io voglio lasciare l'Italia con i conti in ordine. E questo mi fa pensare che appunto anche lui è consapevole che potrebbe starsi chiudendo una fase politica. Ha anche detto, così come aveva detto qualche giorno fa, chiunque scriverà la prossima legge di bilancio, lasciando quindi aperta la possibilità che non sarà il suo governo e quindi lui stesso a farlo. Ha però anche appunto dato una stoccata a Matteo Renzi nel momento in cui dice nessuna legge di bilancio è sprecata. Questo cosa vuol dire? Ovviamente Renzi sembra promettere, non so, un atteggiamento più duro nei confronti dell'Europa per avere altri spazi per tagliare le tasse e fare altre mirabilie. E chiaramente la linea di Padoan è molto più prudente, è una linea, come lui ha detto più volte, del sentiero stretto, ovvero è vero che dobbiamo rilanciare la crescita, ma ricordiamoci che abbiamo un debito enorme alle nostre spalle e soprattutto abbiamo dei vincoli europei che ci piaccia o no, ma dobbiamo rispettare. Quindi, ecco, quando ha detto che il nostro debito è in calo, c'è stato qualche rumorio in sala. Esatto. Notato anche. Davvero? Sì, perché lui ha detto i dati sono quelli. Insomma, è un tema, diciamo, abbastanza aperto, nel senso che dipende un po' da come andrà la crescita, certo, quest'anno. È chiaro che non sta più crescendo tanto, però parlare di una riduzione significativa del debito in Italia è presto, insomma, siamo ancora all'inizio. Però quello che è interessante, si comincia a vedere anche una divergenza un po' tra Padoan. È stato un ministro esemplare dal punto di vista della comunicazione per il governo, sempre fatto grossa negoziazione all'interno dell'esecutivo, ma fuori mai una polemica, mai una rivolta. Certo. E ora si cominciano a vedere un po' di distinguo fra lui e Renzi, chiaramente, perché ci si libera un po', e Padoan ci tiene a ricordare a tutti che se ci saranno problemi fra qualche mese sui conti, perché qualcuno vuole prendere una strada diversa, lui il suo l'ha fatto. Oggi ovviamente vorrei ricordare che il Sole 24 Ore è stato un giornale molto ricco di spunti e anche di interviste, perché insomma oggi c'era qualcosa di molto interessante sulle colonne del Sole 24 Ore. Comunque, allora, il nostro Ferdinando Giuliano è molto alto. Sì. Però io vedo già fuori che c'è gente è un ospite molto, che molto, molto, molto alta. Vabbè, allora. Parliamo di basket. Secondo me parliamo di basket perché Ferdinando. Vedo ragazzi altissimi qua fuori. Allora, Ferdinando, grazie per essere stato con noi. Sono il molto contento. Il suo incontro è domani, Domani alle 10 alle 12. Domani alle 12. Parliamo della fine del quantitative easing. Beh, fantastico. Io l'euro dopo il quantitative easing. No, mi piace molto invece. Io adesso faccio quell'autoironica. No, invece un argomento estremamente interessante. Grazie Ferdinando. Grazie per essere stato con noi. Piccola pausa e poi parleremo di un grandissimo successo sportivo qui a Trento. Radio Tube. Cuore di montagna dolomitica, sono un'aquila, rispetto l'avversario, ma con lui nessuna pietà, ragazzi. Qui, vabbè, si parla di vittorie, si parla di vittorie, ragazzi, si parla di un fenomeno. Allora, noi siamo qui con Radio Tube, Marta Cagnola, Daniele Bellasio, in diretta da Piazza Pasi. Siamo nel centro di Trento, siamo qui per il Festival dell'Economia, abbiamo parlato di economia, ma vogliamo parlare anche un po' di quello che sta succedendo a Trento, Daniele, dai. Allora, dai. La squadra di Trento, di basket, che solo 3 anni fa era in Serie A2, è andata in finale umiliando la mia Olimpia Milano. Vabbè, lo dico su. Allora, dai, su. È successo? Tra l'altro tu adesso sei in mezzo a un esperimento pazzesco, perché devi condurre in transoceanica ospiti straordinari. E non capendo quasi nulla di basket. Però perché noi ti aiutiamo. Allora, lui è nazionale. Sì. Lui è giovanissimo, il miglior giocatore italiano, è stato scelto come miglior giocatore italiano under 22. Secondo me in futuro gli americani, l'NBA già ci hanno già messo gli occhi, ce lo buttano. Ed è, non è di Trento? No, ho scoperto che è di un posto molto vicino a casa. Diego Flaccadori, ciao Diego. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Diego, che bravo. Però ragazzi, non è il nostro unico ospite. No, abbiamo accanto a me, cioè il direttore sportivo, vero direttore sportivo, l'ho detto giusto, dell'Aquila Basket, Jared Ralski. Ciao Jared. Ciao, grazie. E poi gli eroi ragazzi, di Trento. Ragazzi, qui hanno fatto veramente un'impresa. E poi noi possiamo anche andare a fare un saluto al di là del dell'oceano, perché quando ci sono si anche parla le finali NBA, ma sì, vabbè, c'è anche questo dettaglio delle finali NBA, ma quando si parla di basket a Daniele Bellasio brillano gli occhi. Non solo io, diciamo metà italiani, tutti gli italiani che seguono il basket, perché la voce del basket è solo una ed è quella di Flavio Tranquillo, e ce l'abbiamo collegato al telefono dagli Stati Uniti. Ciao Flavio. Buongiorno. Ah ragazzi, ce l'abbiamo. Buongiorno, perché lui saranno le 6 del mattino. Sì, non so poverino a che ora l'abbiamo recuperato. Vabbè dai Daniele, chiedi subito qualcosa a Flavio così. Flavio, tu hai seguito un po' la finale, la storica semifinale, chiedo scusa? Ho visto il secondo tempo di gara 5. E che ne pensi? Che è successo? Le prime tre partite ovviamente. Che dici? Che è successo? Trento, un'impresa storica contro Milano, Milano ha deluso. Che cosa è successo, in poche parole? Beh, è successo che questo gioco ha una logica, per fortuna, ed è una logica che non è quella del foglio di carta. Su un foglio di carta, con il massimo rispetto, è naturale che la somma teorica del valore dei giocatori avrebbe dovuto produrre una vittoria, soprattutto in una serie di Milano. E invece non si gioca, per fortuna, sul foglio di carta, si gioca dentro 28 metri di parquet, e al di là del fatto che sia finita 4-1, al di là di quante partite Trento ha vinto nettamente, è stata una costante il fatto che c'era una squadra con identità, una senza identità, e quella con identità batte, quella senza identità sempre 100 volte su 100, perché non è che funziona che tu stai 89 minuti nella tua metà campo e poi fai il colletto di rapina, è un altro tipo di gioco. Ah, ecco, capito. Sì, perché io sto prendendo nota, così imparo. Ragazzi, voi cosa dite questa cosa? Diego, cosa dici? Non si gioca sul foglio di carta, ma si gioca sul campo. È bella come espressione, eh? Sì, sicuramente è bella. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di straordinario per una città come Trento, quindi anche noi sono passate solo poche ore dall'accaduto, quindi piano piano dobbiamo realizzarlo anche noi. E come diceva Flavio, è vero, si gioca tutte le partite. Noi abbiamo dimostrato che col cuore, con la voglia di vincere, la nostra determinazione, potevamo raggiungere un bellissimo risultato. Jared, come sono questi ragazzi? Flacadori, dici? No, in generale i ragazzi dell'Aquila, e questo ragazzino qui. Questo ragazzino che sei di Seriate, vero? Seriate, sì. Vedo io, perché poi è un po' dalle mie parti, quindi io sono un po' campanilista. Come sono questi ragazzi? Loro questa stagione hanno fatto un lavoro che ha fatto il mio lavoro molto più semplice, perché veramente sono stati bravissimi con il loro approccio giorno dopo giorno, anche quando le cose non andavano benissimo, e loro avevano la capacità di stare sulla strada e continuare di lavorare. È un gruppo che onestamente io amo, questo gruppo. Grandissimo. Flavio Tranquillo parlava di identità. Che cosa dà identità a una squadra nel basket, ma in generale nello sport, a una squadra? Che cosa dà l'identità? La tecnica, il coraggio, l'allenatore, la grinta, l'essere amici, non essere amici, essere in competizione. Che cos'è che dà identità a una squadra? Ma per noi, nostra identità è ovviamente nostra grinta, nostra energia, nostro approccio sul lato difensivo, in cui mettiamo il tono partita dopo partita, e secondo me avevamo la capacità di continuare a giocare con questa intensità, e a un certo punto il nostro avversario si stancano e prendiamo il vantaggio mentalmente con questo approccio difensivo. Diego, secondo te? Ma come ha detto Jared, noi siamo una squadra che è veramente difficile da affrontare, perché giochiamo ogni possesso come se fosse il possesso più importante della partita, quindi cerchiamo di mettere pressione sulla palla e pressione difensiva veramente in maniera costante, quindi questo sicuramente è quello che ci sta facendo fare i passi importanti che stiamo facendo. Una squadra come Milano, che è sicuramente una squadra costruita per vincere, ha sofferto il fatto di giocare contro una squadra intensa e fisica. Ieri sera io ho cenato in un pub, c'erano mega schermi e un tifo indiavolato per Trento. Che cosa rappresenta la vostra, cioè che cosa senti che rappresenta, esatto, questa squadra per questa città? Ma sicuramente è una bella rappresentanza, e sia noi che la pallavolo abbiamo sempre cercato di rendere al massimo delle nostre possibilità. Noi quest'anno abbiamo fatto qualcosa di grande, e anche ieri i nostri tifosi erano numerosissimi anche a Milano. Sapevamo che qua a Trento tantissimi bar, pub trasmettevano la nostra partita, sapevamo che c'erano tante ma tante persone a Trento a sostenerci, quindi questo sicuramente ci ha dato una forza in più. Io, guarda, te lo assicuro, perché noi sentivamo un tifo indiavolato e quindi insomma il tifo c'era. Ti ha lanciato un po' una provocazione, Daniele, dicendo che magari un domani ti vede negli Stati Uniti, posto che Trento è il posto più bello del mondo e io già che infatti non capisco niente di basket. Lui ha un contratto, tra l'altro, tosto negli anni, quindi... Però, 22 anni, miglior giocatore, azzurro, già insomma già così nelle finali. Però io ho ancora 2 anni di contratto a Trento, quindi non sto pensando assolutamente... Ma nell'NBA chi tifi? Nell'NBA a Cleveland. LeBron è il mio giocatore preferito. Ah, LeBron? Sì. E allora Flavio tranquillo. Non l'abbiamo allora? Più, non ci senti. Eccolo qua, eccoci. Come qua. Stanno andando le finali laggiù allora? Beh, sono appena cominciate, come al solito il termine tra la prima e la seconda partita delle finali è overreaction. Cioè si esagera con le reazioni, soprattutto quando una squadra vince così nettamente come ha vinto Golden State in gara 1. Adesso sembra che siano già finite, che devono finire per forza 4-0. Non è molto dissimile, mutatis mutandis, la questione. C'è una squadra più forte, però l'identità ce l'ha. Adesso sta la squadra leggermente meno forte riuscire a fare qualcosa dentro la serie per provare a cambiarne il corso, perché se Golden State continua a giocare vicino al massimo del suo potenziale è impossibile anche per LeBron James e Cleveland. Senti, noi parliamo a un pubblico diciamo più vasto degli appassionati tradizionali della pallacanestro. Se tu dovessi spiegare qual è la grande differenza tra il basket NBA e la pallacanestro in Italia, che cosa diresti? Beh, elementarmente ci sono giocatori migliori, perché la forza economica della Lega è talmente maggiore in un caso rispetto all'altro che attrae per definizione i giocatori migliori, con le strutture migliori, con il contorno migliore, eccetera eccetera. Però non è una questione di cosa è meglio o cosa è peggio, è una questione di cosa c'è dentro questo gioco, e dentro questo gioco c'è un qualcosa che va al di là di chi lo interpreta. Poi è chiaro che, con il massimo rispetto, tra LeBron James e Forrai c'è differenza. Però, per esempio, la storia di Forrai dovrebbe essere una storia che sta in prima pagina o all'apertura dei telegiornali dappertutto, perché c'è dentro tantissimo e non dipende così necessariamente da quanto è forte Tizio e quanto è forte Caio. Bello. Però anche in Italia comunque il basket ha un sacco di appassionati, certo. Cioè magari ha più appassionati di quello che è la copertura mediatica che meriterebbe. E poi ha un tifo molto molto particolare, sportivo, capace. Cioè è proprio bello andare a vedere le partite di basket. Ci sono tanti bambini a vedere le partite di basket. Prova ne sia che un tifoso come Daniele Bellasio è qui sportivamente, sì, a omaggiare. Cioè, la storia di Trento è particolarmente bella. Mi sarebbe, come dire, pesato molto di più aver perso in un altro modo con un'altra squadra. Poi è una storia umana e sportiva, no, molto bella. Forrai, che appunto è un giocatore dell'Aquila, e quindi non so, nel vedere Milano così, però a te, Diego, ci è venuto in mente, comunque Milano era Milano, aveva vinto il campionato, è stata comunque in testa tutta la serie principale. È successo qualcosa per cui si è sgretolato come un monumento? Ma forse secondo me è stata più una vittoria nostra che una sconfitta loro, quindi secondo me il fatto che noi abbiamo sfidato Milano in semifinale, la nostra prima semifinale, quindi avevamo già una motivazione, il fatto di giocare contro Milano ci ha dato ancora più motivazione, quindi forse il fatto che noi siamo arrivati a questa serie veramente carichi nel voler fare un risultato storico. Ovvio, sapevamo di giocare contro i più forti, l'avevamo dimostrato durante l'anno, però ogni partita ha una sua storia e noi abbiamo cercato di vivere ogni partita come se fosse la, la più importante della serie. Poi ragazzi, cosa... adesso sì. Cosa succede? Spiegatemi. No, c'è la finale, però non esatto. Si sa qual è l'altra finalista. Ah, ok, no, perché io sto studiando e sto imparando, quindi aspettiamo un'altra finalista? Sì. Adesso aspettiamo, sì, la vincente tra Avellino e Venezia che deve finire la serie. Ah, fantastico. Jared, quindi o a nord o a chi sud. Chi temete di più? Scusa? Chi temete di più tra Avellino e Venezia? Di chi avete più paura? Non di nessuno. Non dire che abbiamo una preferenza. Loro devono giocare e noi dobbiamo giocare con la squadra che vincono. Quindi... Ah, ma molto tranquilli. Ma no, ma loro sono fantastici. Io sono già super fan io di questi ragazzi, ma super super fan. E io vorrei tornare a Flavio Tranquillo, parlando di un mio mito assoluto, perché la cosa bella del basket è che ci sono dei giocatori spesso che infiammano il pubblico non avendo lo stesso talento delle star. Per esempio Della Vedova. Flavio, che cos'è Della Vedova? Un giocatore, come facciamo a raccontarlo appunto a chi il basket magari non lo segue sempre? Ma la fortuna di questo gioco è che è un gioco di squadra con sia la G che la S maiuscole, quindi non è assolutamente necessario essere 2,10 metri e tirare facendo sempre canestro da 10 metri per fare la differenza. Questo è un problema spesso di narrazione del gioco, si tende troppo spesso a ridurlo a uno o due giocatori, a uno o due situazioni, quando invece è un gioco in cui il risultato è la somma veramente di tanti, tanti, tantissimi fattori e quindi anche giocatori meno dotati fisicamente, meno dotati tecnicamente sono in grado di fare una differenza importantissima tra la vittoria e la sconfitta. Ci dici in un tweet che America hai trovato? Beh, devo dire che lavorando molte ore al giorno entri un po' in quella che da questa parte dell'oceano si chiama tunnel vision, però per quel poco che si riesce a percepire un paese diverso rispetto all'anno scorso, questo è poco ma è sicuro. Trump non è uno dei tanti presidenti, lascerà un segno comunque abbastanza profondo. Grazie Flavio. Io devo leggere un buon tweet lavoro. Molto divertente, perché noi siamo qua a parlare di Europa, Stati Uniti, NBA, successi sportivi. Un ascoltatore scrive: vi mercate, unisce due miei capisaldi, Marta Cagnola e Flavio Tranquillo. Capito? Noi siamo qua a parlare di oceano e poi torniamo in Brianza. Grazie a Flavio Tranquillo per ciao, essere stato con lavoro. Noi. Ciao Flavio. Grazie ancora. Ciao Flavio, grazie. Dobbiamo ringraziare anche questi due ragazzi meravigliosi. Grazie di essere venuti qui dopo una serata così, in bocca al lupo per la finale. Dico per le ascoltatrici, due bellissimi ragazzi. Vabbè, stavo dicendo alle ascoltatrici a bassa voce che sono dei bei ragazzi. È sabato. Sì. È anche primavera. Vabbè, dai. Allora, grazie a Giorgio Flaccadori, grazie a Jared Ralski, veramente in bocca al lupo. Io, vabbè, farò a questo punto Forza Trento. Sì, Forza fuori Aquila. L'Olimpia, Forza Trento. Guarda, io avete conquistato una tifosa, magari anche qualcuno adesso di poi più. Spieghi, nella pausa adesso le spiego tre regole. Le regole del basket, fa niente. Io faccio il tifo anche se non so le regole. Grazie ragazzi per essere stati con grazie noi. Grazie mille a voi. Allora, ciao. Traffico e poi saremo ancora insieme con l'ultimo spicchiettino di RadioTube. Grazie. YouTube. Cioè, noi eravamo qua a farci selfie, certo che... ma che forti, Marta, che sono, che bella storia di sport, vabbè, il basket. Che trasmissione però. Moser, la Juve, cioè, la Champions, Moser, Flaccadori, cioè, io non lo so. Adesso ci sono i ragazzi che si fanno i selfie, certo, fuori con lui, con... giustamente. Te lo posso dire una cosa, questo sì. Qua in America ci va, Adesso lo può godere Trento, perché se, giustamente se lo deve godere Trento, però è giovanissimo, la carriera è lunga. Mi sembra anche un ragazzo molto molto saggio, mi è piaciuto molto. Sì, poi freddi, cioè sì, questi sì. Fanno un'impresa. Io alcuni sportivi non li capisco, perché io sarei lì tutto, invece loro freddi, perché mica è finito il lavoro, c'è ancora la finale, no? Certo, quindi bisogna grandissimi, grandissimi. Vabbè, no. Io mi sono emozionato molto, però dire un retroscena? Sì, dimmi. Allora, siccome noi abbiamo visto che appunto nelle ultime ore montava il fenomeno, che hanno vinto, noi li abbiamo chiamati in realtà abbastanza all'ultimo, li abbiamo chiamati stamattina presto. Sì, sì, sì, sì, anche perché non sapevamo prima. L'avessimo fatto con dei calciatori apriti cielo, sarebbe stato. Invece i cestisti sono spontanei, belli. Sì, veniamo. E adesso appunto sono lì, ci sono tutti i tifosi. C'è un sacco di gente. C'è fuori un sacco di gente, ci sono tifosi, giustamente, perché adesso sono gli eroi di Trento. Bravi, bravi, bravi, bravi anche bei ragazzi. Poi sulla l'hai detto. Poi siamo sulla notizia: Trento, il Festival dell'Economia, il Festival del Basket. No, peraltro, appunto, io prima sai che ho parlato del Mart. Tu sei andato a vederlo. No, ragazzi, allora lo dico a tutti: mamma, papà, famiglie. Allora, il Mart di Rovereto è un museo pazzesco. Chiedo scusa di non esserci andato prima. Stupendo, poi c'è Burri, Fontana. Una roba straordinaria, venite, venite, venite. E poi anche a Trento, ovviamente c'è un sacco di cose bellissime. Beh, però per dire una cosa anche di Rovereto. Tanto bella, infatti mancavo da un po', no, imperdibile. Trento mi piace da morire. Senti, allora parliamo un po' degli ultimi protagonisti della settimana, dai, facciamo un po' di. È da un po' di tempo che non parliamo del direttore, direttorissimo, super direttore. Enrico Mentana ha fatto, allora io lo trovo che sia una cosa stupenda, perché bisogna uscire dal fatto che la televisione, tu devo ammettere che tu lo fai spesso, io involontariamente cosa faccio? No, di essere naturali, cioè succede una cosa, a me ogni tanto suona il telefonino, succede una cosa, ma perché mentire? Perché stai, allora, restare professionali sì, certo, però l'ipocrisia della forma a volte si esagera. Beh, per esempio Mentana cosa ha fatto? È entrata una persona che lui voleva salutare e sentiamo cosa è successo. Allora fatevi salutare, facciamo una cosa che non si fa, non sta neanche interessato, il nuovo direttore della 7 che è venuto a salutarci, Andrea Salerno, peraltro in questi studi è già venuto a fare tante incursioni da coéquipier di Zoro, no? Per tante volte il team di Gazebo è entrato in questo studio per un'improvvisata, chissà che non ci entri, non possiamo dire niente? Vabbè, vedremo. Allora, la verità è che Enrico Mentana ha un senso della notizia che noi qua tutti messi insieme non riusciamo ad eguagliare. Cosa ha fatto lui? Ha visto entrare Andrea Salerno, nuovo direttore della rete. Nuovo direttore della rete. Avrebbe potuto semplicemente fargli ciao con la manina. Sì. E invece ha fatto questo fuori programma. Che è veramente un inedito in un telegiornale. In un telegiornale, esatto. Perché è un conto in un talk show, ma in un telegiornale. E ha cercato di dare la notizia che Zoro, cioè Diego Bianchi, Gazebo, potrebbe passare alla 7, no? Dice, vabbè, a questo punto, visto che tu, Andrea Salerno, che sei stato per anni anche un volto di Gazebo, beh, cosa facciamo? Visto che sei venuto qua tante volte. Ma è una buttada o c'è un sottofondo, c'è un rumor? Il rumor c'è. E secondo me Mentana con questa così provocazione è comunque vera o non vera, ha fatto girare la notizia e ragazzi. Cioè, infatti io il video l'ho ascoltato perché era titolato video virale perché Mentana, certo. E poi dopo c'era questa cosa di Gazebo. Ma restiamo? Restiamo a Gazebo? No, restiamo alla 7. Anche a Gazebo. Certo, perché allora un altro dei volti resi noti da Gazebo, che in realtà è un bravissimo collega della carta stampata, dell'Espresso. Abbiamo avuto anche lui ospite, siamo grandi fan di Marco da Milano. Ha pubblicato un libro, Processo al Nuovo, va bene? Anzi magari lo chiamiamo in una delle prossime puntate, giusto, dai. Era ospite in un talk show con un politico, diciamo così, non divisivo. No, molto... un politico, come si può dire, morbido. Sì, allora è uno dai toni sempre abbastanza freddi e pacati. Sì, ma dalla lingua, diciamo così, diciamo appunto. Dalla lingua, diciamo. Vabbè, Massimo D'Alema, sentiamo come è andata a finire. Prodi è stato uno di quelli che hanno governato. Perché dicono lei vuole rifare l'Ulivo, ma lei è quello che l'ha ucciso l'Ulivo. Ma chi? Beh, l'ha detto anche Renzi l'altro ieri. Ma appunto, e lei lo ripete come un pappagallo. È una stupidaggine, colossale, diciamo. Beh, quello che Io sono stato sul 1998. Io sono stato. Quando lei disse Romano stai sereno. No, lei è uno stupido, perché io cercai di salvare quel governo, come è noto. Sì, e poi come è noto prese il posto, ma adesso non riapriamo. E chi lo fece cadere fu Bertinotti. Accidenti, tutto questo a Piazza Pulita. Lei è uno stupido. Secondo me si è un po' lasciato prendere la mano. Non è neanche da D'Alema, dai, lei è uno stupido. Vabbè, è stato un po' nei confronti dei giornalisti nel corso degli però, anni. Diamine, sì, no, dai, un po' troppo. Però poi dai, abbiamo anche quello che ha detto dopo Massimo D'Alema. Ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. Vai. Quindi sì, il Movimento 5 Stelle è una, può essere definito una costola definito. Era un'analisi. Ci dicono che quasi il 30% viene da Milano, perché lei è un... Mi dispiace di averla trattata in modo rude e inappropriato, diciamo, ma in modo renziano, è dai. Un conservatore di leggende del passato, no? Ora io ho un po' di memoria, lei ha appena detto che un paese dove nessuno si ricorda niente, adesso mi sta dicendo conservo le leggende. Vabbè, dai, in questo finale di stagione televisiva in cui stanno succedendo tutte, è successa anche questa. Però voglio dire che il giornalista incalzi fa parte del gioco. Che il giornalista incalzi e che il politico, non facciamo la battuta. Allora, Daniele, finito questo pomeriggio in diretta qui da Piazza Pasi. Possiamo restare a Trento, ma dobbiamo salutare gli ascoltatori perché finisce qua il nostro lungo pomeriggio in diretta. Domani mattina ci sarà qui da Piazza Pasi, si può fare. Grazie a Daniele Bellasio. Grazie. Appuntamento al prossimo sabato per il Sabato del Villaggio e poi per RadioTube. Ciao!